Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Centrale FM Italia. Come tutti i mercoledì è Positive Vibration a modulare l'onda sulle frequenze 97.5 metri d'altezza. Riccardo ride. Che succede? Perché siete poco serie tutte e due. Siamo poco serie, in studio Claudio e Riccardo con la regia delle Burneo Totò Scaccia. E questa sera grande serata per Positive Vibration. Esatto, stasera sono emozionatissimo perché abbiamo in ospite della nostra trasmissione, almeno in maniera indiretta, al telefono Giorgio Rastablanco delle Radici nel Cemento. E non solo avremo l'intervista telefonica, ma c'è una grande sorpresa, perché avremo cosa, Riccardo? Lo diciamo dopo, una sorpresa, diciamolo dopo. Allora, quindi direi di introdurre il nostro artista con il singolo, almeno l'attuale singolo nuovo dei Radici nel Cemento. Si tratta di Sorrugantino. Che Totò non trovo, ovviamente in regia mi guarda malissimo. Lo troverà. Salvo, nel frattempo parliamo, tra 5 minuti tenteremo il collegamento telefonico. No, no. Aspettiamo Sorrugantino dalla regia. No. Vabbè, Salvo. Va bene, siamo partiti alla grande. Siamo partiti alla grande. Scusate, uno di voi due venga a curare questa parte della console. Vai tu, Claudio, dai. Perché dice la scaletta la costruiamo man mano, ma proprio all'inizio, insomma, sarebbe stato il caso. Esatto. Allora, io ho questi qua: 1, 2 e 3. Giusto? Vai, Claudio, tu vai, sei l'esperto. Insomma, questo è sempre il bello della diretta: è l'emozione che ci porta a fare questo. Abbiamo trovato o no? No, perché la cosa è davvero simpatica. Non l'abbiamo trovata. No, perché devo dire che sapete il contenuto della... La scaletta mobile di Claudio questa sera è abbastanza fallita nel suo intento, ecco. Come di solito anche, no? Come di solito. Vabbè. L'abbiamo trovata? Sì. E allora adesso ci è permesso lanciare l'attuale singolo dei Radici nel Cemento. Si tratta di Sorrugantino. Figlio di Roma, dai sette colli vedo il mondo intero. Si giri per le strade d'ogni posto c'è la Roma. Chiudi l'occhi e ci arrivi col pensiero. So figlio di Roma, sì, ma pure di sto mondo. E me cerode che a trattare la pugna in faccia e a grattagli pure l'anima dal fondo. C'è sta una banda di ladroni e de pogliaccia, e c'è ancora chi mi dice che te lamenti a fa la roda gira, cammina c'è il progresso. Le cose vanno bene, devi solo pazienta, che non lo vedi, io sto già meglio adesso. Però la roda gira, sì, il progresso ci sarà, ma è regolato sopra il tempo dei potenti. Chi sta bene, se può pure appena a fretta chi regge la vita con i denti. Sto mondo è pure zozzo e vabbè te lo concedo, ma mica se può vedere tutto nero. Mo che vorresti fare, io so curioso e te lo chiedo, una rivoluzione se levamo sto pensiero. Mi piacerebbe sì, ma è meglio lascia sta, che la violenza è proprio una bestiaccia. Parecchie cose sì devono, ma si la usi, poi dai, torna in faccia. Sorrugantino, spiritaccio, fumantino, abituato a ragionare con la panza. Se qualcosa non me va, me sa rintorce l'intestino, è come un prospero ma piccio d'eruganza. So Rugantino sì e so te core, e certe cose io te le dico in faccia. Se sei un politico, una guardia, un gran dottore, sono alieno faccia per pezzente o per signore. Combatte sto sistema, c'è chi dice non conviene, fatte furbo e cercar meglio compromesso. Ma si la scelta è tra grosse o piccole catene, gira e gira, me sento sempre in fesso. Perché il progresso gira e gira sempre più de fretta, e non si trova manco il becco ad un salario. Si non riesce a stargli dietro, quello cuore non t'aspetta, tu rimani caffidasse e san precario. Quando sentenziano i politici o il custode de San Pietro, e ci propinano divieti e soluzioni, si abboccamo invece che avanti, ma ritorniamo indietro al moderno medioevo dei coglioni. E su in cima a sto scalone del potere e della gloria, ci sono quelli che per loro per signore ci fanno vivere nel terrore della fine della storia. Io mi incazzo e mi c'appele nel cuore. Rientriamo in studio con Positive Vibration. Abbiamo appena ascoltato Sorrugantino, questi erano i Radici nel Cemento. Nel frattempo abbiamo provveduto a stabilire il contatto telefonico con Giorgio Rastablanco. Giorgio, ci senti? Eccoci qua, contatto stabilito. Contatto stabilito, buonasera Giorgio, come va? Ciao ragazzi, bene bene, tutto a posto. Un saluto a voi, un saluto a chi all'ascolto. Un abbraccione da Roma, anzi no, un abbraccione da Bologna in questo caso, però insomma, da Roma, virtualmente da Roma. Esatto, noi ti ringraziamo intanto per la disponibilità. Sappiamo che oggi eri in viaggio e quindi insomma in una situazione un po' difficile. Ti ringraziamo in anticipo. Sei un po' incastrato, no, grazie a voi dell'invito, insomma è un piacere mio. Ok, allora abbiamo appena mandato Rugantino, Sorrugantino, che è l'attuale nuovo singolo dei Radici nel Cemento, tratto dall'album appunto Il Paese di Pulcinella. Il pezzo ovviamente, come tutti i vostri pezzi, è abbastanza impegnato, diciamo, nel tema sociale, come anche un po' lo stesso Paese di Pulcinella. Rugantino, che è uno dei personaggi diciamo romanzesco della cultura romana, che in questo pezzo appunto rivive un po' le difficoltà della società italiana, ecco, no Giorgio? Sì, assolutamente. Rugantino al momento è quello che è stato il nostro ultimo singolo, che è comunque già ormai datato di un paio di mesi, e più che altro è stato un remix di questa versione, che è quella originale del disco, che è stato un remix un po' in versione diciamo dancehall, che abbiamo riproposto recentemente, che è disponibile online tra l'altro, no Giorgio? Sì, esatto. Ma e come dicevi tu, appunto, il personaggio, diciamo la maschera, per così dire, di Rugantino, l'hai centrato abbastanza bene, nel senso che è un po' una maschera romana del sì, da noi si direbbe rompicoglioni, insomma, quello che mette un po' in natura per tutto, quello che non. Che comunque è la voce, diciamo, delle ingiustizie, un po' delle cose che non vanno. È un po' riadattato ai tempi moderni della Roma di oggi, insomma stava bene anche nel discorso legato al paese di Pulcinella, che insomma affrontava un po' il discorso, diciamo, del paese dove viviamo, insomma, dal punto di vista un po' delle cose che non vanno, esatto. Ecco, per dirla così in generale. E più che altro io non lo terrei più legato solamente alla città di Roma, ma Rugantino, mi sa che qui a Termini Imerese ce ne sono un bel po' di persone che possono, diciamo, essere un po' accomunati a questa figura. Io più che altro mi riallaccio a un pezzo della tua canzone, dove si dice perché il progresso gira e gira sempre più de fretta, e non si trova manco il becco d'un salario. Se non riesce a stargli dietro, quel che corre non ti aspetta, non rimane che affidarsi a San Precario. Mi sa che con la situazione della Fiat qui a Termini Imerese è un po' gente. È veramente particolarmente centrato, insomma, l'evoluzione tra virgolette, diciamo, perché mettiamo sempre molte virgolette quando si usa questa parola. L'evoluzione del processo industriale poi ha portato a questo, tra le altre cose negative. E certamente è un problema che poi sentite in maniera particolare, stai tranquillo che è un problema che ormai sentono un po' tutti, ma non solo in Italia, ma penso ormai insomma è sotto gli occhi di tutti che la crisi è mondiale, nonostante quello che ci racconta il nostro, che ci raccontano i nostri governanti, insomma non si vede granché in via d'uscita. È un problema strutturale che ha proprio radici profonde, non credo che si possa risolvere da un giorno all'altro. Esatto. Sì, diciamo anche che voi non siete nuovi a questi temi, anche in passato abbiamo pezzi come lavoro, la logica del profitto che hanno riproposto. Sì, un po'. Noi diciamo che abbiamo sempre trattato con una disinvoltura ma anche abbastanza sfacciata, devo dire, dai temi più pesanti a quelli più leggeri. Quindi diciamo che nella nostra produzione c'è un po' di tutto. Certo, il filo rosso legato al mondo del lavoro c'è sempre stato, perché se pensiamo che nel primo disco nostro, che era recentemente uscito nel 96, c'era già Mirafiori, che in esatto. fondo era una dedica all'emigrante, al classico emigrante del sud che andava a lavorare nelle fabbriche del nord, e poi tu hai citato giustamente lavoro, fino ad arrivare ecco a questa recitazione su Tarantino, la stessa Working Class. Working Class, esatto, sì, diciamo che l'aspetto diciamo della classe operaia è una cosa che ha sempre fatto parte della nostra sensibilità, per così dire, insomma, essendo anche insomma noi abbastanza vicini a chi lavora, siamo sempre stati abbastanza attenti a questo mondo qui, tra le altre cose, insomma, che è un aspetto che ci ha sempre interessato e credo che continuerà a farlo, insomma, visto che insomma abbiamo questa cultura qui, una cultura diciamo, che viene insomma da quelle parti lì, quindi non esatto, è lì che guardiamo, insomma. Sì, proprio quindi riallacciandoci a questo vostro nuovo disco, si chiama Il Paese di Pulcinella, un chiaro riferimento alla situazione italiana anche un po', cosa ci puoi dire su un po' come viene visto questo percorso all'interno del disco della situazione italiana? Ma guarda, innanzitutto ti dico una cosa, questo è il nostro ultimo disco, perché di nuovo stiamo parlando sempre di un CD che ha ormai 2 anni di vita, quindi... Sì, certo. Diciamo, è forse più giusto dire che è il nostro ultimo disco. Esatto. Sì, no, per informare insomma, magari chi non conoscesse i nostri album, che insomma è un disco abbastanza datato ormai, insomma noi stiamo già lavorando esatto. su cose nuove, quindi insomma si spera che il prossimo disco sia quello insomma sia qualche mese, però sì, diciamo che il Paese di Pulcinella è nato quando ancora questa crisi economica che c'è stata in Italia non era ancora esplosa ai livelli perlomeno di adesso. Ma mi sa che come sempre la musica ci vede lungo su queste crisi, no? Beh sì, evidentemente sì. comunque diciamo, il contesto generale è questo nel nostro paese. La title track la rispecchia abbastanza bene, perché va proprio a prendere gli aspetti tra l'altro anche belli e brutti del nostro paese. Esatto. Purtroppo tra quelli brutti c'è anche una questa voler sempre mantenere un profilo di illegalità diffusa, di illegalità tollerata, comunque anche per quanto riguarda le classi dirigenti sono esattamente, rispecchiano in grande quello che poi in piccolo è l'ambizione del piccolo italiano, che poi in fondo è resta un piccolo borghesotto che spera di cavarcela, ecco, questo è il dato di fatto. Poi certo siamo un popolo che ha anche delle grandi potenzialità e anche delle grandi qualità, però insomma esatto, c'è anche un po' di un presente negativo qui, mi sa che voi quando cantavate alla rovescia, mi sa che ci avete visto ancora una volta lungo, mi sa il presidente del consiglio che si fa le leggi ad personam, il ministro a cui viene pagata la casa da altri, insomma sì, ci sono adesso, tante cose che paradossalmente cioè la realtà sta superando l'immaginazione che c'era in quelle canzoni, perché veramente stanno riuscendo anche a fare di meglio o di peggio, insomma di quanto si poteva immaginare, però ecco tutto sommato è proprio una mentalità trasversale che attraversa un po', ovviamente non stiamo generalizzando, ma parliamo bene o male di un filo rosso che lega un po' l'italiano piccolo, il piccolo imprenditore, l'entità suscio, cioè la volontà di sfangarla, no? Più che di mantenere un profilo magari etico, un profilo coerente. E quindi ecco il Berlusconi che si fa legge a personam è un po' come il piccolo evasore, cioè, esatto, c'è una linea che collega che rispecchia insomma alla fine in grande quello che è il piccolo questo paese, un po' la volontà di arrangiarsi, di sfangarla facendo magari la piccola marachella, sperando di non essere peccato, se mi beccano mi faccio togliere la multa, esatto, faccio la casa così, faccio fare il condono, cioè insomma andiamo avanti così, ecco. Infatti rispecchiamo un po' quello che è il nostro governo per certi versi. Comunque dico, direi di cambiare un po' argomento e passare a cose più allegre, visto che ci hai diciamo fatto un bel regalo, nel senso che oggi per la prima volta verrà presentato quello che è il vero singolo dei Radici del Cemento. Vero singolo, diciamolo, l'abbiamo qui in anteprima, no? Esatto, quindi sì, questa è un'anteprima assoluta, nel senso che è una canzone che uscirà ufficialmente come ci dica una settimana circa, e verrà comunque promossa con tutto insomma con tutta una serie di lavoro dietro. Al momento esiste soltanto in questo formato digitale che noi stiamo facendo girare insomma un po' in anteprima insomma i nostri amici, le persone insomma ci sono un po' più vicine, e quindi ho pensato, visto che c'era questo appuntamento, di farlo sentire in anteprima. È un po' un colore diverso rispetto a Pulcinella, siamo nell'ambito di un altro stile, anche sia musicale che di testo, però insomma mi fa piacere farvelo ascoltare, credo che siate tra i primi a passarlo insomma in assoluto in Italia. Sì, diciamo quindi questo singolo si chiama Sole Luna, noi prima di ascoltarlo avevamo il piacere, se fossi tu stesso, a presentarlo qui, poi lo ascoltiamo e dopo riprendiamo l'intervista, che dici? Sì, volentieri, allora io è con estremo piacere che vi presento in anteprima il nostro nuovo singolo Sole Luna per Radici nel Cemento, con la collaborazione e lo special guest di Giulia. Radici nel Cemento, Sole Luna, Positive Edition. A dopo. Riportare indietro il tempo, fermare il mondo in un incanto. Solo tu, incorreggibile, senza neppure un avvertimento, spunti fuori come un lampo. Scende questa pioggia ancora e ancora su di noi, non la puoi fermare adesso anche se lo vuoi. Sole luna, ciao, sole luna, yeah. Dimmi dove sei, dimmi cosa fai. Sole luna, ciao, sole luna, yeah. Oggi come sei, oggi come stai. Il ghiaccio insieme al fuoco, un po' sul serio, un po' per gioco. Solo tu, inconfondibile, parli col sole e con il mare, eppure il vento ti sta a ascoltare. Cadono le foglie ancora e ancora su di noi, non le puoi afferrare adesso anche se lo vuoi. Sole luna, ciao, sole luna, yeah. Dimmi dove sei. oggi come stai? In realtà già saprai cos'è che ho da dire. Sempre più spesso ho il desiderio di fuggire. Pensavo di essere abbastanza forte, invece a volte non riesco a competere con te. Cerco in mano di trovare un perché, un qualcosa che mi spieghi cosa succede. Ma lascio perdere seguendo il vento. Sento che ogni cosa mi parla di te. Se guardo il sole sembra di osservare te. Sempre forte ovunque sai risplendere. Al contrario di me, che come la luna mi preferisco nascondere. Scorro le pagine che adesso scriverai. Questo nostro libro che non vuol finire mai. Sole, luna, ciao. Sole, luna, yeah. Dimmi dove sei, dimmi cosa fai. Sole, luna, ciao. Sole, luna, yeah. Oggi come sei? Oggi come stai? Prossimo singolo dei Radici nel Cemento feat Giulia, questo è Sole Luna ed in anteprima assoluta qui a Positive Vibration. Giorgio, ci sei? Eccomi. Con immenso piacere devo farti anche i complimenti per questo grande pezzo. Ci stupite sempre con le vostre nuove produzioni. No, ti ringrazio, è un piacere per me poterlo fare un po' sentire così in anteprima anche a voi, perché insomma dai, è una cosa simpatica, è un po' un fuori programma, esatto. È una versione molto lunga, per noi abbiamo per le radio una versione un po' più ridotta in realtà, però mi fa piacere, insomma, è stata una cosa carina presentarlo qui, diciamo, in anteprima, dai. Grazie, ascolta, su questo proprio Sole Luna è un po' un'inversione di stile rispetto alle origini delle Radici nel Cemento. Più che altro si tratta di un testo un po' più leggero dal punto di vista del contenuto, è un po' meno impegnato, più basato, un testo un po' più romantico, ecco. Però si possono ravvisare anche delle contaminazioni tipo dancehall, ecco, quella che è un po' quella che è un po' il ramo della musica reggae più famosa al momento, che dici? Ma assolutamente, guarda, io ti dirò, forse da un certo punto di vista non sono d'accordissimo con te, nel senso che forse rispetto alle origini nostre questo pezzo in realtà è abbastanza ritorno, diciamo, a un suono un po' più roots, che è quello che poi caratterizzava i nostri primi album, se vai a vedere, insomma, infatti parlo proprio del 96 e del 99, uh-huh. Primi due dischi, che erano molto più roots. Poi ultimamente abbiamo virato abbastanza su uno stile un po' più, diciamo, un po' più veloce, un po' più su basi un po' più ritmate, un po' più alle grotte, un po' più andanti, però tutto sommato noi veniamo dal roots classico, e quindi per noi è stato un po' riscoprire con dei suoni, diciamo, che chiaramente registrati con tecniche moderne, però con suoni antichi, perché sono Hammond, Valvolari, è tutto suonato, è tutto registrato in sala, non ci sono loop, non ci sono quasi campioni, è tutto un suono molto caldo, però ci abbiamo voluto comunque inserire quello che per noi è, insomma, negli ultimi anni è diventato un'influenza importante, che comunque è Ragamuffin, però insomma nella maniera, insomma, abbastanza soft, che piace a noi, insomma, senza esagerare con i martelli, insomma, col beat, cioè ci piace sempre essere vicini un po' alla radice della musica reggae, ecco. Sì, comunque sì, ci piaceva l'idea di un suono caldo, ecco, comunque anche nel beat Ragamuffin, comunque di mantenere un po' un calore di base. Il testo, come dici tu, effettivamente è un testo leggero, come dicevo prima, noi queste canzoni le abbiamo un po' sempre fatte, se vai a vedere da Pappa e Ciccia fino a, non so, a Scegli il Sole, che è dell'ultimo album, esatto. Comunque abbiamo sempre trattato, insomma, argomenti sentimentali vicino a queste serie, quindi per noi non è una novità questo qui. Però insomma ci piaceva uscire in questo momento con un Lover Roots, era quello che avevamo nelle corde, abbiamo scritto anche altre cose che porteremo più avanti fuori, sicuramente un po' più legate all'aspetto militante, però insomma in questo momento ci andava di essere presenti così, di uscire con questa qui, con Giulia, e siamo contenti come è uscita questa canzone. E siamo contentissimi anche noi, dico tra l'altro complimentoni alla Giulia che insomma ha una voce assolutamente diciamo calda e ottima per questa collaborazione, ecco. Sì, io aggiungo anche che se ti interrompo, aggiungo anche che nel mondo, diciamo, della capita spesso di incontrare gente molto brava ma non altrettanto alla mano, per così dire, e invece per noi è stato anche un piacere scoprire che insomma Giulia, oltre ad avere una bellissima voce, oltre ad essere comunque una voce, un timbro importante adesso nella scena italiana, un timbro nascente, emergente, forte, è anche una persona molto, molto di cuore, insomma, che insomma, ha la passione e soprattutto è tranquilla e non è che siccome c'ha due zoom che gli vanno per radio, chissà gli scrive di essere, insomma, faccio una piccola polemica, via. Questo, un po' di polemica, diciamo... dai. Questo diciamo è un ottimo punto a suo favore. Ieri era l'11 maggio e ricorreva appunto l'anniversario della morte del re del reggae Bob Marley. Diciamo sì. da quando lui è scomparso, la scena del reggae, ecco, ha subito un po' un'evoluzione diversa da quelle che erano diciamo le radici del messaggio, ecco, della musica reggae, soprattutto per quanto riguarda il panorama musicale giamaicano, più che altro ecco questa esplosione della dancehall con tematiche sempre un po' meno profonde dal punto di vista sociale e forse anche violente, in alcuni casi offensive. Cosa ne pensi tu di questa evoluzione? Ma guarda, sono assolutamente d'accordo con te al 100%. Poi insomma qui bisognerebbe fare almeno due interviste per parlare tanto di questa cosa, perché cioè io, noi tra l'altro è un argomento che ci sta molto a cuore fin dal 2004, quando siamo usciti con Sognando Giamaica, e che comunque era proprio un modo di dire, un modo per far capire alla gente che non tutto quello che arriva dalla Giamaica, e purtroppo lo possiamo prendere come oro colato, perché non è così, ahimè non è così. Sì, come dici tu, dopo probabilmente negli ultimi 10-15 anni il reggae ha preso una bruttissima deriva, soprattutto quello legato alla dancehall, con questi nuovi cantanti insomma rampanti della scena giamaicana. Però sai, purtroppo secondo me la cosa più grave è che è anche l'omertà e un po' di disinteresse che c'è in Italia per questo fenomeno, perché da un certo punto di vista in Giamaica in qualche modo la cosa è, se non giustificabile, quantomeno è comprensibile, perché comunque non è una cultura aperta. Esatto. Stiamo parlando di uno stato comunque quasi terzomondista da un certo punto di vista, con tutto il bene che voglio alla Giamaica, però cioè, da un certo punto di vista che ci sia dell'ignoranza latente è comprensibile. Che qui in Italia si faccia finta di niente quando si ascoltano determinate liriche, questo è grave. Secondo me è più grave, non è tollerabile, perché insomma oggi con internet chiunque è in grado di tradurre un testo, e quindi se tu non hai la coscienza di voler capire cosa stai ballando e cosa stai cantando e cosa stai ascoltando, come dici tu, probabilmente ci siamo dimenticati del reggae come doveva essere. Esatto. Del reggae di Marley e di chi ha seguito la scuola di Marley, perché ne parlavo giusto ieri con un altro ragazzo, ci sono cantanti giamaicani che ancora esercitano la loro carriera, come Max Romeo, come Barney Spear, come Joseph Hill, come Rico Rodriguez, che sono rimasti rasta e non hanno mai avuto bisogno di essere violenti, di associarsi a certe tematiche, e di andare in giro come delle superstar. Esatto. Sono rimasti rasta paciosi e tranquilli come dovrebbero essere dei Rastaman. Quindi non bisogna essere per forza così, ecco, questo voglio dire, c'è anche un'altra strada che è quella che noi, pur non essendo rasta, comunque rispettiamo, quella dei veri rastaman che sposano una filosofia, che è una filosofia di pace e di tolleranza, insomma, non di violenza e di rifiuto, insomma, dell'altro. Ecco, questo è il concetto. Sì, è giusto, perché hai citato questo pezzo di un po' di anni fa vostro, Sognando Giamaica. Io avevo un po' una curiosità, volevo sapere un po' se per caso, anche alla luce delle nuove esperienze di cantanti italiani come Alborosi, che è andato a vivere in Giamaica, anche Brusco, che recentemente ha inciso un disco direttamente giù in Giamaica, non so, voi sognate ancora la Giamaica, se per caso non avete intenzione anche voi di fare un po' un viaggio spirituale, no? No, guarda, purtroppo no, vi devo dire la sincerità, non è nelle nostre previsioni. No, noi, guarda, siamo sempre stati un gruppo concettualmente molto legato e radicato nella nostra società, cioè volendo noi siamo più vicini a un certo filone di reggae che viene dall'Inghilterra più che dalla Giamaica. Sì, ecco, assolutamente. Spesso siamo abituati a questo reggae incentrato sulle tematiche religiose del rastafarinesimo, vediamo invece che in Italia il reggae ha un po' un'altra linea di pensiero, più che altro si occupa di tematiche sociali, sì. Sì, ma io penso che sia anche normale, o meglio, diciamo così, noi abbiamo sempre rispettato chi fa il reggae attraverso la filosofia rasta, chi diffonde questo genere di filosofia con le tematiche corrette, però, ripeto il discorso di prima, cioè chi come Barney Spear, come Mr. Roots, come gli Abyssinians, come tantissimi gruppi come gli Steel Pulse, gli Aswad, cioè che hanno promosso comunque nelle loro canzoni la religione, la filosofia rasta. E noi non apparteniamo a questa schiera, ma la rispettiamo ovviamente, come rispettiamo chi comunque crede in buona fede e porta avanti delle idee che sono delle idee di pace, di rispetto e di tolleranza tra le genti, tra le razze. Ecco, questo. Esatto, noi siamo d'accordissimo con te. Noi siamo d'accordissimo anche perché diciamo che l'idea di questa trasmissione, della nostra trasmissione in radio, nasce anche da una voglia di abbattere alcuni dei cliché che si fondano intorno a chi ascolta la musica reggae. Spesso siamo vessati da stupidi, direi, cliché come quelli che siamo tutti drogati, che siamo tutti comunisti. Sì, questo, certo, non esiste un po', no? Sì, vabbè, questo qui purtroppo, sempre perché stiamo parlando, appunto, ne parlavamo prima, che purtroppo siamo in un paese piccolino e sto presto ad additare una categoria di persone, no? Poi magari, ecco, passa quello con la cravatta e con i capelli col gel è tutto, e va bene. Già, magari un chilo e mezzo d'eroina, no? Però tu sei il tossico perché ti fai due canne a un concerto reggae, cioè, questo è la... Vabbè, questa è l'italietta, insomma, di cui parlavamo prima. Sì, fondamentalmente io, ecco, quello che volevo dire è questo: noi abbiamo un rispetto profondo per chi porta avanti questo genere, diciamo, di messaggi. Voi vi chiamate positive vibration, allora io vi chiedo, ma come si fa a parlare di vibrazioni positive quando si da un palco si incita la gente a picchiare, a dare fuoco, a sparare, cioè che tipo di positive vibration possono nascere da messaggi del genere? Ecco, questo è assolutamente nulla di questo, possiamo dire. Secondo me è abbastanza improbabile, a meno che non ti tappi le orecchie e fai finta di non sentire, cioè, e balli solamente, ecco. Quello che succede qui è questo, alla fine, no? La gente arriva, lo accendino il fischietto e non gliene frega assolutamente nulla di quello che viene detto. Basta che sente il basso, balla e vabbè, però noi non stiamo dietro a questo genere, insomma, di idea, ecco, ne abbiamo altre e portiamo avanti le nostre. Proprio a proposito del pensiero che per ora va in Italia, noi volevamo sapere anche un'altra cosa da te, perché recentemente c'è una brutta notizia, magari in Italia, perché sappiamo che il Rototom si sposta. Non si può più fare in Italia, il più grande festival reggae europeo, assolutamente, per certo, tanti anni ad Osoppo, qui in Italia, vicino Udine, si sposta per andare in Spagna. Quindi proprio a causa di queste vessazioni, la legge Fini-Giovanardi, abbiamo avuto anche quest'altro dispiacere. Sì, io su questo argomento ti dico, insomma, quella che è la mia posizione. Poi non abbiamo una posizione di gruppo su questa cosa qui, noi abbiamo, insomma, diverse idee, diciamo, non del tutto coincidenti. La mia su questa vicenda qui è che assolutamente solidali con il Sunflash, assolutamente noi per quello che abbiamo potuto abbiamo sostenuto la lotta, la battaglia loro per rimanere, perché non venisse fatta questa espulsione diciamo coatta. E nonostante alcune diversità di vedute che noi abbiamo con il Rototom, anche tutto sommato in amicizia, perché molti di loro li conosciamo personalmente da anni, quindi non c'è nessun tipo di problema, però abbiamo alcune diversità diciamo di vedute nel, su come magari il Rototom e il Soundflash si è evoluto in questi ultimi anni. Però nonostante queste diversità di vedute è una battaglia di libertà che noi dovevamo comunque sostenere insieme a loro. Abbiamo dato il nostro piccolo appoggio, non è che è servito a chissà cosa, però insomma nel momento in cui si è trattato di sostenerli ci abbiamo provato, perché comunque nel momento in cui ci è andato a prendere una posizione in questa storia non c'era alcun dubbio da che parte stare. Esatto. Speriamo insomma che quest'anno troviamo i soldi per andare lì in Spagna e godercelo nuovamente, rammaricati un po' dalla situazione, ecco. Ma io guarda, ho un altro sogno anche, ma questo non è, non mi vogliono i... Giorgio, ci sei? Non ti sentiamo più, Giorgio. Pronto? Ops. Vabbè, allora nel frattempo che riprendiamo i contatti con Giorgio, vi mandiamo Le radici nel cemento con Sognando Jamaica. Messo dal cemento, io non m'accontento, col pensiero volo in alto, spengo tutto e parto. Portami laggiù, dove il freddo non c'è più, dove il vento soffia caldo e la montagna è blu. Sognando un po' Jamaica, sha-la-la-la, sha-la-la-la-la. Uso la mia fantasia, io che non so cos'è volare, ti trascino via, via da qua giù, verso il cielo che vuoi tu, dove suona questa musica di mare blu. Sognando un po' Jamaica, sha-la-la-la. Perfetto, rientriamo, abbiamo recuperato il collegamento. Giorgio, ci senti? Sì, eccoci qua, è caduta la linea, cose che capitano, dai tranquilli. Perfetto, va bene, allora nulla, noi ti volevamo dire solo un'ultima cosa. Noi la prima volta che ti abbiamo visto live è stato a Pollina, fino ai Pollina qua in Sicilia qualche tempo fa. Volevamo un po' sapere, ritornerete da queste parti magari? Dunque, noi abbiamo sicuramente già un po' di date diciamo impostate nel tour estivo. Verremo anche, andremo nord, centro, sud, faremo un po' tutto. Piuttosto che dirvi delle fregnacce, come si dice a Roma, io vi consiglio di andare a dare un'occhiata al nostro sito, dove tra l'altro potrete scaricare gratuitamente in download anche il nuovo singolo, da oggi mi hanno detto, e date un'occhiata lì alle date, perché sicuramente gireremo e sicuramente verremo lì. Però se adesso ti comincio a dare a memoria, direi tante di quelle stupidaggini che tu non ti immagini. Allora va bene, Giorgio, preferisco che far parlare l'etere. Ok, ti ringraziamo, io. Allora ci salutiamo, ci fai un saluto a Radio Centrale magari. Grazie, allora certamente un salutone, un abbraccione a Radio Centrale da parte mia, Rasta Blanco, da parte di tutte le radici nel cemento da Roma. Continuate così, massicci, come sempre, avanti così. Ok, grazie Giorgio, ciao, un abbraccio. Serata, ciao, saluto anche a voi, ciao. Com'è il ritmo dei tuoi pensieri, al taglio dei tuoi umori, in che direzione va? Sposta da lì il velo dei tuoi timori, la nebbia dei malumori si sta diradando già. Adesso cosa fai? Ora non è tempo per le lacrime. Hai mai sentito parlare di rivincite? Sciogli quella patina di ruggine, riprendi il cammino e vai. Scegli il sole, è questione di stile. Facile, facile, piomba sul levare e scaldati se vuoi. Scegli il sole, è questione di stile, vienilo a prendere, imbattere e levare si muove con noi. Allenta un po' la presa, forza che sta stringendo la tua vita. Rallenta un po' la corsa, respira e poi dimentica. Lascia le tue cose qui, tanto le ritroverai con le tue nuove ali, sì. Piano piano volerai. Mentre si è staccato il collegamento prima con Rasta Blanco, mi diceva, dopo quando abbiamo ripreso, che stava proprio dicendo questo, si parlava del Rototom, lui sognava praticamente l'avvenire di un nuovo festival reggae, grande festival reggae nel sud Italia, e noi ci speriamo anche di Positive Vibration, lo spingiamo questa idea assolutamente, Riccardo. Magari, così evitiamo di fare viaggi troppo dispendiosi per insomma entrare a contatto con gli artisti e la musica reggae, ecco. Quindi, e niente, abbiamo parlato tanto questa sera, ascoltiamo, sì, un po' di musica, visto, perché, visto che insomma noi con le date non siamo mai puntuali. Oggi è il 12, ma ieri, come avevo ricordato prima, ricorreva l'anniversario del re del reggae, Bob Marley, morto appunto l'11 maggio del 1981. Per ricordarlo adesso vi mandiamo un pezzo di Maccabee appunto dedicato a Bob Marley. Si tratta di Bob, Everybody Loves Bob Marley. Robert Nesta Marley, me say happy anniversary. Rasta man vibration, high like a lion in a Zion. We ball out up. Everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. People love all nation. They love the Rasta man vibration. And across many seas, traveling round the world, one thing that I see, everybody know about Bob Marley. And if them ever find some men on the moon, I'm sure they will know some Bob Marley tune. We ball out, everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. People love all nation, they love the Rasta man vibration. Mystic, my ball, get up, stand up, stand up, feel your right. and him fly away home. And I watch the crazy ballers running away from town. We ball, Bob. Everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. Bob. People love all nation. They love the Rastaman vibration. Bob. Everywhere me go, people tell me about Bob. Say in some countries, Bob next to God. The place gone mad. People are all up in the man in the air like a flag. Bob promote the good, they never promote the bad. In the musical chain, he was one of the main cog. Well, it's about time they give a Grammy to Bob. Bob, you did a great job. Oh, everybody loves Bob Marley. Everywhere I go, it's the same old story. Rastafari all over the earth. Lyrically, musically, Bob was an expert. Spiritually, you should have seen him in a concert. Oh, that little Rasta man from Jamaica. 1981, he went to meet the creator. And look now, 14 years later, the man's popularity is even greater. We ball up. Everybody loves. Proprio tutti amano Bob Marley, con questa lirica era proprio questo il messaggio che voleva mandare Maccabi. Noi siamo in chiusura. Siamo in chiusura dopo aver avuto questa emozione della diretta con Giorgio di Radici del Cemento. Ci dobbiamo salutare, ci diamo appuntamento come sempre alla prossima settimana. Noi tutti i mercoledì dalle 20 alle 21 siamo qui in onda con Positive Vibration, le Reggae Vibes in onda su Radio Centrale FM Italia. E appuntamento alla prossima settimana. Vi lasciamo con un ultimo grande omaggio a Bob Marley. Questo è proprio lui con Backyard. Arrivederci. Ciao.